Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko da Bologna, naturalmente 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica, nonché il web sul quale potete ascoltarci scaricando gratuitamente l'apposita app dal nostro sito appunto radiocittafujiko.it. E come ogni mercoledì più o meno alle 10.30-10.35 inizia Città Fujiko Live Club. Più o meno ho detto perché annuncio subito che mercoledì prossimo non sarò in trasmissione, impegni personali mi portano in altri luoghi, però non demordete, ascoltate sempre Radio Città Fujiko e l'appuntamento sarà fra 15 giorni. Ma intanto andiamo con questa trasmissione di oggi, 18 settembre 2024. Città Fujiko inizia sempre, Città Fujiko Light Club naturalmente, inizia sempre con una novità e anche oggi abbiamo una novità succulenta, anche se in realtà è una novità per modo di dire, perché come spesso accade è una registrazione che è stata effettuata tantissimi anni fa. Non sono mai stato molto bravo in matematica, lascio a voi il conteggio degli anni che sono passati dal 25 luglio del 1968. Infatti questo triplo album si chiama Whiskey A Go Go 1968, scusate, ed è accreditato a Frank Zappa and the Mother of Invention. Spero vivamente che Frank Zappa non abbia bisogno di presentazioni, dirò solamente che lui, pur provenendo da Baltimore nel Maryland, si è stabilito presto in quel di Los Angeles, California, per la propria attività musicale. E che definirlo genio è riduttivo, lui era un musicista a 360 gradi, forse anche di più, ha fatto cose di musica classica, jazz, rock, pop, ha fatto tutto, praticamente quello che si può pretendere da un musicista. Dopo la sua morte il suo immenso archivio è stato gestito e ancora tuttora gestito dalla famiglia Zappa, moglie e figli, e che hanno contribuito a rimpinguare la già amplissima discografia di Frank Zappa solo o con le Mothers of Invention, e sono usciti un sacco di album live e questo è l'ultimo forse perché non è mai detto, fa prestissimo perdere cognizione di una dell'ultima uscita discografica di Frank Zappa, ma diciamo che se non è l'ultima è la penultima. Si chiama Whiskey Go Go 1968, come ho già detto, e vede in azione come sempre fior fior di musicisti, fra i quali segnalerei Roy Estrada, il bassista, che di lì a poco sarebbe andato insieme a Lowell George a formare Little Feat. Detto questo, siccome ci sono tante cose da ascoltare, andiamo subito con Frank Zappa e uno dei suoi grandi capolavori. Si chiama King Kong, questa è la seconda parte, tutto registrato il 25 luglio del 1968. E qui parte il brano seguente, come spesso accadeva nei concerti di Frank Zappa, i vari brani erano uniti per lunghissimi medley. Questa era la seconda parte di uno dei grandi classici di Frank Zappa and the Mothers of Invention, si chiama King Kong, la versione originale vedeva al violino Jean-Luc Ponty, e questa è la versione invece che ne diedero al Whisky Go Go nel 1968, il 25 luglio per la precisione, questa grande band che è sempre stata capitanata da Frank Zappa nelle varie incarnazioni, anzi nelle moltissime incarnazioni che ha avuto, musicisti che andavano, tornavano, ogni volta, praticamente ogni tour, se non ogni disco, era con una formazione diversa. Questo invece si chiama Whisky Go Go 1968. E il Whisky Go Go è un locale storico di Los Angeles, sta all'8901 di Sunset Boulevard. Chi è stato a Los Angeles, ma anche chi non c'è stato, sa benissimo che il Sunset Boulevard è lungo decine di chilometri, oserei dire, e attraversa praticamente tutta Los Angeles, che è un agglomerato urbano immenso, ed è attivo fin dal 1964, lo è tuttora, sono 60 anni secchi, questo è un conto che riesco a fare anch'io, ed è un locale storico, una pietra miliare degli shows negli Stati Uniti e soprattutto nella costa ovest. Pur contenendo 500 persone solamente, è uno di quelli che appunto resiste ed è stato forse il primo ad inventarsi, fra virgolette, quella formula di più concerti, a parte i due concerti a sera, e di più concerti in vari giorni, cioè un artista o la band in occasione non arrivava lì, faceva un concerto secco o al massimo due nello stesso giorno, ma poi si ripeteva nelle altre giornate. C'è stata gente che ha suonato anche 10 sere al Whisky Go Go, e è stata la culla di una serie di bands che poi sarebbero andate in giro per il mondo ad avere grandi successi. Cito solamente i Doors, Mötley Crüe e i Guns N' Roses, giusto per dirne tre. E il quarto invece è una band britannica, perché in questa prima parte, come avrete sicuramente capito, ci ascolteremo brani che sono stati registrati in questo locale Whiskey a Go Go di Los Angeles, ma con un paletto, come si suol dire, che è quello di band solamente britanniche. E una delle prime band a suonare lì è stata quella degli Zen di Van Morrison, che purtroppo non ha lasciato tracce discografiche ufficiali. Ci sono dei bootlegs, ma niente di ufficiale, fra l'altro bootlegs registrati molto male. Quindi andiamo subito a cominciare invece con una band abbastanza sconosciuta, che ha vissuto pochissimo tempo, perché hanno iniziato come duo nel 1982, poi nell'86 si sono espansi a quintetto, per poi sciogliersi definitivamente nel 1990. Si chiamavano Fountainhead. Il loro live EP, che è quello che ci ascolteremo, che comprende tre canzoni registrate dal vivo al Whiskey, appunto, un giovedì. Era il giovedì 9 dicembre 1986, fra l'altro è l'ultimo show del primo tour americano della band, e credo anche che sia stato l'ultimo, fra parentesi. Il tutto registrato appunto nell'86. Il brano si chiama Sometimes Fountainhead. Ok, good evening Los Angeles, welcome. I'm introducing you now the first American tour, ladies and gentlemen, please put your hands together for Fountainhead. Oh, sovente le grandi star ritornano nei piccoli locali dove erano partiti, giusto per ricordarsi i loro inizi. Ross Stewart andò al Whisky a Go Go il 2 giugno del 1998. Due brani sono contenuti in questo singolo che si chiama Rocks, e il brano naturalmente che ci siamo ascoltati era Do You Think I'm Sexy. Nel 1974 Brian Ogers e i suoi Oblivion Express erano al top della fama, erano famosissimi, e tanto che, a ribadire quanto detto in precedenza, fecero 4 serate al Whiskey a Go Go di Los Angeles, 4 serate, 2 concerti a sera, tot 8 concerti. Da quei concerti, appunto, furono tratti 2 album che si chiamano semplicemente Live Oblivion. Il primo era un long play singolo e uscì nel 74, il secondo invece era doppio e uscì nel 1976, e tutto poi è stato unito in un doppio CD che si chiama Live Oblivion, e che è quello da cui abbiamo tratto questo Beginning Again, che apriva il primo dischetto. Il tutto da questo tastierista molto molto molto bravo che si chiama Brian Auger, tastierista che arriva per fortuna sua da Hammersmith in quel di Londra, e che ha avuto tanto successo negli anni 60-70, poi adesso è un po', questo successo è un po' calato perché fa un tipo di musica che non è che non è da tutti, diciamo così. Il brano, lo ripeto, è registrato dal 10 al 13 aprile del 1974, si chiama Beginning Again. What's going down? Sicuramente la carriera dei This Picture, che è la band che ci andremo ad ascoltare, è durata molto meno di quella di Brian Auger, e infatti è durata dal 1989 al 1995. Hanno fatto un paio di album in studio e alcuni singoli, uno dei quali comprende un brano dal vivo registrato al Whiskey a Go Go nel 1992, non è dato sapere esattamente il giorno e il mese, ma comunque quello che interessa a noi è sapere che questo brano si chiama Naked Rain. Loro sono This Picture. I see a bob up and down. The gates are open, my eyes are wide, burning the candle that keeps me alive. Going blind, going blind. The water's cold, cold, cold murder. So bring it back to me, bring it back to me, and take me in. She is cool. said, had enough of you. I can't take no more. Well, if you could be, like you used to be, well, that would mean, baby, more to me. Yeah. Ecco un'altra band che a mio avviso avrebbe meritato maggior successo. Si chiamano Dogs d'Amour, si chiamano tuttora, sono attivi dall'83, ma hanno avuto diverse interruzioni perché il loro leader Tyler, cantante e chitarrista, ha più volte tentato la carriera solista senza però mai avere il riscontro che ha con il nome Dogs d'Amour. Praticamente sempre la stessa cosa, ma come solista non è considerato, non si sa bene perché, misteri della musica moderna. Loro hanno fatto Dogs d'Amour, sto dicendo, un paio di album dal vivo e alcuni singoli con canzoni dal vivo. Questo è un 12 pollici in vinile, ormai di tantissimi anni fa. I due brani dal vivo che compongono la seconda facciata sono stati registrati al Whisky Go Go il 4 aprile del 1990 e il brano che ci siamo ascoltati si chiama I Don't Want You To Go. A concludere questa piccola rassegna di brani registrati al Whisky Go Go da parte di bands, artisti e solisti britannici, arrivano gli Humble Pie, grande supergruppo formato fra gli altri da Steve Marriott e Peter Frampton negli anni 60, anzi per meglio dire, e sono ancora anche loro in giro con un solo membro originale, come spesso accade in questi casi, che è il batterista Jerry Shirley. Anche in questo caso 4 serate al Whisky Go Go di Los Angeles, 3, 4, 5, 6 dicembre 1969, la cosa più antica che ci ascoltiamo proprio in chiusura di trasmissione. Il brano che ho scelto per voi, forzatamente a causa del tempo, perché sono tutti brani molto lunghi, è una cover di un brano di Ray Charles che si chiama Hallelujah, I Love Her So, dal vivo al Whisky Go Go di Los Angeles, Humble Pie. Just for kicks, uh-huh. Daddy, let your hair hang loose. This is an oldie but a goodie. Novità di oggi ad aprire la seconda parte di Città Fujiko Live Club, mercoledì 18 settembre 2024, Frank Zappa and the Masters of Invention, questo nuovo album live triplo che si chiamò Whiskey Go Go 1978, auguri, sempre 70, non so bene perché, comunque 68, 1968. Registrato nell'omonimo locale del Sunset Boulevard a Los Angeles, triplo album molto molto bello, come molte delle cose che fa Frank Zappa. Alternano canzoncine tipo quelle che ci siamo ascoltati a brani assolutamente incredibili tipo King Kong che ci siamo ascoltati nella prima parte della trasmissione, il tutto ad opera di questa registrazione che è stata effettuata il 25 luglio del 1968. Seconda parte di Città Fujiko, come sempre, vede in azione anche Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta, lo so, sono tedioso, ma lo dico sempre, tantissime cose registrate in questa giornata e il criterio di scelta è sempre quello di un brano per ogni decade. E iniziamo alla grande con una band italiana, forse la migliore band italiana di sempre, almeno per quel che mi riguarda. Si chiamano tuttora Premiata Forneria Marconi, ma sono tutta un'altra storia rispetto a quella degli anni 70. L'unico membro originale, anche in questo caso succede anche con gli italiani, l'unico membro originale è Franz Di Cioccio, cantante, batterista, percussionista, che da sempre è il motore ritmico della band, che è attiva dal 1971. Un cofanetto molto molto bello che si chiama 10 anni live 1971-1981. Sono quattro CD che racchiudono la prima parte della carriera della PFM, come veniva anche chiamata dagli amici. Qui abbiamo la registrazione del 1977 che vede in azione la band a Porto Recanati in provincia di Ancona, ed è una delle prime dei primi tour italiani dopo la sbornia americana, che però è poi stata abortita dal gruppo. La cosa personalmente mi ha dispiaciuto molto, perché erano veramente un gruppo a livello internazionale, poi si sono rinchiusi un po' su loro stessi. Comunque, Porto Recanati, 18 settembre 1977, Out of the Roundabout, Premiata Forneria Marconi. We'll be right back. Premiata Forneria Marconi, era il 1977, il 18 settembre naturalmente, visto che siamo in territorio Ricordi Today, e la formazione migliore secondo me, quella che vedeva Bernardo Lanzetti alla voce, fior fior di cantante come si dovrebbe dire, e il brano Out of the Roundabout contenuto in questo quadruplo dischetto, in un bel box che si chiama 10 anni live 1971-1981, molto probabilmente, anzi sicuramente ci sarebbe materiale anche per gli ulteriori 10 anni e ancora 10 anni fino ad arrivare ai giorni nostri, ma finora non sono mai stati pubblicati. Out of the Roundabout, ribadisco, era il 18 settembre 1977 in quei di Recanati. Non ha bisogno di presentazioni, Mr. Neil Young, dirò solamente che arriva da Ontario, Canada, e che dopo decenni di vita in California ha preso la cittadinanza americana solamente qualche anno fa per votare per Biden, praticamente votare contro Trump, ecco questo è il problema. Diciamo che fra parentesi il prossimo 25 ottobre uscirà un nuovo, fra virgolette, album live di Crosby, Stills, Nash & Young, un album registrato al Fillmore East nel 1969 e appunto si chiama così, Live at Fillmore East 1979, saranno sempre le stesse canzoni oserei dire, ma sono sempre bellissime. Qui abbiamo un'antologia che si chiama Lucky 13, che comprende una serie di brani anche mai pubblicati e che parecchi di questi sono dal vivo, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare, che è stato registrato con una delle band che l'hanno accompagnato per non molto tempo, a dire il vero, che si chiamava Shocking Pinks, il tutto registrato alla Hara Arena di Dayton in Ohio il 18 settembre del 1983. Il brano si chiama Once an Angel. Once an Angel, always an angel. You're as close to heaven as I'll ever be. It's been 6 years now since my ring slipped on your finger. And those years have made a better man out of me. Once an angel, always an angel. You're as close to heaven as I'll ever be. There have been times when I treated you so badly. I've done things I know you'll never understand. But you take me back, turn your eyes towards the wind. Where you hide the tears you don't want me to see. Once an angel, always an angel. You're as close to heaven. Thank you. as close to heaven as I'll ever be. You're as close to heaven as I'll ever be. Uno di quei brani che Neil Young, secondo me, potrebbe scrivere anche mentre dorme. Comunque, si chiama Once an Angel, anche senza applausi, però era registrato dal vivo alla O'Hara Arena di Dayton, in Ohio, appunto, insieme agli Shocking Pinks, ed è contenuto in questo dischetto che si chiama Lucky 13, perché sono 13 canzoni fortunate a essere state pubblicate. E Once an Angel, il brano che ci siamo ascoltati, il tutto registrato il 18 settembre 1980. 83. Until my troubles were gone, then when I left her behind. Vengono da New York City e sono attivi dal 1993 i Fun Loving Criminals. Contrariamente a quanto succede di solito, i due membri della band hanno licenziato, in pratica il frontman, che si chiama Howie Morgan, è stato licenziato nel 2021, è stato sostituito da un altro cantante chitarrista, e c'è solo un album dal vivo che hanno fatto, ma è una cosa un po' particolare perché era disponibile solamente per coloro che avevano donato soldi per fare questo album live, e sono state fatte solamente 500 copie. Qui invece abbiamo un singolo, si chiama Fun Loving Criminals Sings the Fun Loving Criminals, titolone a dire il vero, e ci sono due brani registrati dal vivo al Cabaret Music Hall di Montreal, Quebec, Canada, il 18 di settembre del 1996. Il brano che ho scelto per voi si chiama Coney Island Girl, loro sono Fun Loving Criminals. Yo, let's do Coney. Wanna do Coney Island Girl? Yo, we got this one song that we kind of do every once in a while, and it's one of them psycho jams. It's called Coney Island Girl, and it's about this weird story that someone told me once. There was this guy, right, and he killed his girl for whatever reason. He was a psycho. But then, you know, it's like The Telltale Heart by Poe, you know. He's like chilling, and he sees this girl in the neighborhood, looks just like his girlfriend. Days go by, weeks go by, months go by. He don't know what to do. Eventually, he kills this broad. You know, I don't know, it must be the water in New York, whatever. But he kills the broad, and then, you know, he freaks out, and this is what the song's about. It's called Coney Island Girl. living me in a black winter. I think of flying down into a sea of pants and feathers and all other instruments of faith and sex of God in the belly of a black winged bird. But don't try to feed me, because I've been here before and I deserve a little more. Invite me in, but don't try to lead me, 'cause look, I've been there before, and I deserve a little more. Dances across the porch while the radio plays Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you, only don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared, you're thinking maybe we ain't that young anymore. We're showing you ain't a beauty, but hey, you're alright, and that's alright with me. You can hide beneath your covers and study your pain, make crosses from your lovers, throw roses in the rain, waste your summer praying in vain for some savior to rise from these streets. Well, now I ain't no hero, that's understood. All the redemption I can offer, girl, is beneath this dirty hood, with a chance to make it good somehow. But what else can we do now? And simmer on down the windows and let the wind blow back your hair. And this night's busting open, these two lanes will take us anywhere. Hey, we got one last chance to make it real, to trade in these wings on some wheels. So climb in back, baby, heaven's waiting down the tracks. Take my hand, we're riding out tonight to case the promised land. Oh, Thunder Road. It's lying out there like a killer in the sun. I know it's late, we could make it if we run out to Thunder Road. Look at Dan. See, Dan got this guitar and he learned how to make it talk. If you're ready to take that long, long, long, long walk, bring your phone. porch to my front seat. The door is open, but the ride ain't free. So tonight you'll be lonely for words that I ain't spoken. Tonight you'll be free, all the promises broken. There were ghosts in the eyes of all the boys that you sent away. They haunt this dusty beach road in the skeleton frames of burnt-out Chevrolets. And they scream your name at night in the streets. Your graduation gown lies in rags at your feet. And in the lonely cool before the dawn, you hear their engines roaring on. But when you get to the porch, they're gone. It's a town full of losers. You come from a town full of losers. And I come from a town full of losers. We all come from a town full of losers. We all come from a town full of losers. We all come from a town full of losers. We all come from, we come from, we come from, we're pulling. Che dire di una band che all'interno del proprio pezzo più famoso, che si chiama Rain King, ci mette tutta Thunder Road di Bruce Springsteen. È una cosa incredibile, bellissima. E il tutto viene da Counting Crows, questa mega super band che è attiva dal 1991, musicisti che provengono dalla Bay Area di San Francisco. Hanno fatto 5 album live nel corso della loro discografia, più una marea di singoli con live songs. Questo è un album che riproponeva in toto il loro album d'esordio, che ebbe una fortuna incredibile, venduto milioni e milioni di copie negli Stati Uniti. L'album si chiama originale August and Everything After, e questo invece si chiama August and Everything After Live at Town Hall. È stato infatti registrato nell'omonimo locale, cioè nel teatro che è all'interno di quello che è il municipio di New York City, e infatti si chiama Town Hall proprio per quello. È il tutto registrato il 18 settembre del 2007, Ranking including Thunder Road, fantastico. There's a long drive all the way from the hills in Berkeley down to the freeway and... Altro super personaggio, oggi andiamo veramente alla grandissima, si chiamava purtroppo Tom Petty, insieme ai suoi Heartbreakers, venivano da Gainesville in Florida e sono stati attivi dal 1976 al 2017, che è l'anno in cui Tom Petty morì, e lasciando gli Heartbreakers orfani del loro leader. Kiss My Amps è un long play che è stato pubblicato nel 2011 per il Black Friday Record Store Day, di quale parleremo il mese prossimo, e che è stato poi bissato da Kiss My Amps 2, che invece è uscito per il Record Store Day del 2016. Kiss My Amps bacia il mio amplificatore, i miei amplificatori, anzi magari sono anche i doppi sensi, ma non li ho colti appieno. Comunque, il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato alla Time Warner Cable Music Pavilion di Raleigh in North Carolina il 18 settembre 2010 e si chiama Running Man's Bible, loro Tom Petty and the Heartbreakers. Survival. Ecco un altro che non si discute, Tom Petty and the Heartbreakers, il brano che ci siamo ascoltati si chiama Running Man's Bible, è stato registrato a Raleigh, North Carolina, il 18 settembre 2010 ed è contenuto in Kiss My Amps, il primo dei due vinili che sono stati pubblicati per il Record Store Day, o per meglio dire questo per il Black Friday Record Store Day, l'altro per il Record Store Day, quello di originale di aprile. Prima di passare all'ultimo brano vi ricordo solamente che mercoledì prossimo non sarò in trasmissione, o perlomeno non sarò in voce live, probabilmente ci sarà una replica, e che vi siete ascoltati un paio di ore di musica dal vivo che è denominata Città Fujiko Live Club, musica di tutti i generi e di tutte le epoche, naturalmente da Radio Città Fujiko 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, e appunto anche il web con l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito. Vi lascio in compagnia di una grande band, una delle band nuove più diverse, più belle, più, a me piacciono tantissimo. Si chiamano Krungbin, lo dico come scritto, con KH iniziale, KH Krungbin. È un trio che viene da Houston, Texas, attivo dal 2010, fanno una musica molto molto particolare ed sono veramente ottimi, ascoltateli con attenzione, perché hanno fatto una serie di long playing dal vivo, quasi tutti in collaborazione, anzi diciamo splittati insieme ai loro opener acts. Infatti questo long playing che si chiama Live the Stubs è stato accreditato a Krungbin and Friends, i Friends sarebbero Kelly Doyle, Ruben Moreno e Robert Ellis, che erano gli artisti che aprivano il loro concerto del 18 settembre 2021 allo Stubbs di Austin, Texas. Vi lascio in loro compagnia, ricordatevi questo nome, segnatevelo, sono veramente ottimi. Il brano si chiama The Number 4, Krungbin. Ciao a tutti da Nevio. Today would have been my grandpa's 101st birthday. Happy birthday, Grandpa. Thank you so much.